And now a reminder of those essential verbs, to have and to be. Avere. Essere. Io ho. Io sono. Tu hai. Tu sei. Lei ha. Lei è. Lui ha. Lui è. Noi abbiamo. Noi siamo. Voi avete. Voi siete. Loro hanno. Loro sono.